e poi fai da. Anch'io so uno sceppi. A Luca l'ha mandato un menù da rimane, tutte le fotografie, tutte le pietanze. Io dall'età di 18 anni, prima tardi a ruote d'orse, giù a Pisa, americano, il bronzo. Ok Antonio, sei è la zona del coprifuoco, a chi chiedere un coprifuoco permanente 24 ore su 24, ma tutto l'anno. Graziano stasi in Civitasi, vabbè, vabbè, ci sto in un quartiere di Bovari. Così è mio Antonio Sè, cosa vuoi fare? Ma Graziano, se preparando il bruno, i carotti si sa di chi può, mi sotto i manti, non morare tu quasi. Antonio Sè. Le zero è di notti, non cosa lo bruno, oia. Speriamo che lo digerisca bene, ma il brodo di notte è pesante, sempre un po' grasso è quel brodo lì, sicché il pollo è più leggero, ma di marzo vuoi digerito un minuto, tuia. Oh vabbè, che io ho mangiato anche la peperonata di notte e l'ho digerita tranquillamente. Graziano, beh, sono 30 kg furiosi. No, Graziano se ne mangia una catarella, se ne mangia di brutto, Antonio sei. Tu non mangia poco, una catarella se ne mangia. Capita, infatti, quando mi invita la culo a casa sua, no? È rimasto a ciappare, un piatto a cabatella è rimasto a ciappare. A chi si mangia? Tutto questo si mangia. Bene, Graziano. Io sono abituato a lavorare, mi circolo 2-3 panini in mezzo, un posto sul piede, a me lo do raggiungi. Intende, pure la moglie è più intende, Antonio Marie, cioè Antonio José. No, io mangio tutto, e allora? Sì, vado una teglia, mi è rimasta, la rimane, no, mi pare che sono rimasti 8 barzette e 4 capo collo. Come è branca, no, di collo. Capo collo e panzetta. Mi rimane a poco Giulio, mi. Attento, vita Giulio, immagna un bel tutto di magna, mi. Puro mi sulle rimani. Ma poi per mirizzare per la roba. Raccontaci la verità, a chiamare abbiamo compreso, mi è un po' come all'ista lì, Graziano. Paolo, raccontaci la tua verità. Graziati la verità, Giulio. Fatti rimanda, se c'è gli occhi mando le foto, Luca, aspetta che guardo, Giulio. Guarda, manda, Graziano. Così ci diciamo, io ad altro momento. Gianni, ma già ne è caduto mi, Antonio sei già ne è caduto. No, che sono un problema mio, Antonio sei, non è un problema, a chi provvediamo subito, se proprio vuoi accostare così casa stasera, io addirittura vi lascio il telefonino registrato, pensa un poco, avanti ti posso sentire subito una piccola strofa, metta andare, faccia di trutta, aspetta che te la mando subito, ripiglia due intanto. Entra negli stavi, stai per battagli. Aspetta che non riesco a distaccare la canzone, ma se no disturba. Adesso mi sei cantato lo telefono in te. Come on! di le puttati, le fanno casino a Conte, a Di Maio, a tutti i politici, ai sei. Intesa, è fittuso. Neanche qua, ma questa sta protestando perché gli hanno chiuso i locali e non l'ha ridato un franco. E adesso ha chiuso del tutto, l'hanno invata a Valli. E lei chi viene non l'hanno aiutata a Bannuta, né delle altre che bisogna. Per carità. E le mani buone siamo buoni, ma carità, ma abbiamo un governo che fa direttamente il schifo. Ciao palle so, che se non la tocca, non la puoi toccare chi sa. Ah mamma, dai no che davanti sono impressionati, caso di me, a chi tutti gli altri dice che sono trabaglianti, che deve ne sarà e tu che non guadagnare. Dani, ma devo chiamare il palmiere battatini da terra, cosa è successo? Gianni, non è possibile, Gianni, io sei dormito, ho cattito dalla cattria. Anzi no, da Ruletto, a chi è di Mordone già quando vieni di cuccato? Eh vabbè dai, vuol dire che qualche cosa la fa, sarà attendente di Biccioni, no, non i Biccioni, di cose, come si chiamano? Ma ne vedi, quanti messaggi mi state venendo, tu sai cosa vuoi fare Massimi? No, fare l'acquario va, si vede che andiamo a mangiare dei pesci, i pesciolini, Antonio José. Ti ha mandato il voto. Messiano. Dimmi. Ma un capocollo, proprio è. No, ancora, non voglio senza fa. Abbiamo un'oretta, un'oretta e mezzo. Allora tu ti mangi a casa tua? Passa, passa, ti do una sveglia, c'è pancetta, capocollo, sì. È un peccato, se no domani la do carugare. Ma scusa un attimo, voglio andare a un grande, non mi dare rimani, se mai dammi del brodo che fai chiamare. Non rimani, vedi, sta cosa è troppo, per me è troppo bizzante. Abbiamo cucinato, ma abbiamo goccio, ma un esercito. A me piace il brodo, se mi ne chiamo la tettiera, faccio un cazzo. La cannuccia regga, sì. Mi ha mandato quattro fotografie e in uno mi sono vedi tutto me e l'altro piatto me mi sono i camperoni. Non già si tratta vero gioco lui ha. Ehi capita, Luia! Sai che non fa Graziano, fai bene Graziano, mangia va che sei in vita, anche quando muori non mangi più nulla, né tu né io. Avanti Antonio José. Allora, è che non mangio il numero del dottore, se non ti abbiamo mandato la fotografia che mi ha mandato un vassoio pieno di camperoni, ma poi l'altro che ha tanti stuzzichini, salsiccia, taggio, affettato, tutte queste cose così, no, un bello piatto insomma, ecco. Allora, dobbiamo la fotografia da in giro, da voi la mando in giro, alla gente, ma fa vedere che chi è domani così sui calziosi. E allora, è sicuro. Avanti a Paoletta, Giulio. Il senso è Paoletta, cosa ha detto Giulio? Paoletta, dimmi la tua verità, che tanto a Graziano ormai non credi più nessuno. E allora, questo è nel fede manco, come te una volta a 83 minuti, no? Era casa vecchia di Sassa, il centro storico. Mi tagliavo, c'è noi, mi tagliavo una famiglia. E tu mi dici, dall'inferriata, di chi sta cucina, di chi sta bella, e c'è la dugna di fumo, sempre fumo di garri, un fiago, dugna santa di... Capita, una bella via per me copiato così, da chi non vignore era massimaggio, e navigava un po' di grasso, navigava, dopo niente, e la graviglia dopo niente fa fumo, e carne non veniva, era solo grasso che faceva fumo, e boh, e la gente era convinta che gli si mangiava le giugnali, beh, carrizza, eccetera, e invece non era vero, era dimostrare fame, tanto è vero, la mari sono entrati in casa, sono entrati nelle bigliette, la barietta, mezzo gotto e mezzo gru, l'ha dato un burretto di mamma. Tanto che è rientrata mamma che ce l'ha allontanata un attimo per un negozio vicino. E si chiama Maria, ma chi è entrato a casa? E la raga pedì, sa quelle fasi, ma in oro mala, dice, e la giubilata io che non sapevo cosa da mangiare. Come si sì, è sempre finita lì, fende fumo. E vabbè, lì sulla la cosa, dice, e era grasso che bruciava la bignaria, Antonio Maria. Giulia, guarda quest'altra che se l'ho mandata, a me adesso lo fa. Ehi, la so come te, grazie, sei pittina. Tu mangi troppo, la Giudito, tu mangi troppo, sicché a poco le fotografie. C'è anche la passione che è scivolato dalla Gadria, Antonio Maria, fa lì su. Di tutto è buono, ma non so fotografie che figlio. E mangiare il cuffareggio, mia mamma ha mandato chissà degli che lo dice in azzurro, a coso. Di abbanzetta, capocollo, pevaroni, melenzane, mi l'ho mandata a Giulio. Giulio, guarda, mi ingrandisci la foto. È la giovita, grazie, c'è la giovita, che si vede i veri, i melenzani, la melenzana in forno, si vede me. Ma che se mi pare un tattarino, mi pare, anziché panzetta, un tattarino mi pare, grazie. No, a che bella sintata, capito, però io non ne mangio. Dovia vedere se verrà una signora che conosce, no, che non l'ha già vista. Se non la dovia dare questa signora che fa un bel figlio. Ma oggi non l'ho vista. Non so che va sia domani. Se ce l'hai fatta è buona ancora. Penso di sì. È che non è buona, vediamo che non è buona. Se va lontano, chi saprebbe che è già lontano, non è un problema. A proposito, raccontami, ma c'è quasi la Puglia per andare a fare un ginecologo, o grazie. E allora, fra un po' quando? Fra poco vado, e la bella di Biglia la Biccioli paga. Ah, chi è che vai a pagare pure? Bambù, io non mi sarei capitato, la verità è. Antonio sì, andiamo da base. Tu già si andi a fare il ginecologo da una femmina con la fialetta e le basi la puntura. E allora prima chiamava, veniva che si infilmeggia e mi ripigliava 50 euro. Pugnassi di figlia. E chi te la cava pure a terra? Ciao, ciao Antonio Zé, salutoni a te e grazie per la chiacchieratina, è stato un piacere veramente, fatti intendere, prima sera più o meno li avvisemmo, magari verso che cura, pure un poco prima li avvisemmo, se hai tempo e se hai piacere, noi siamo in occhi e vogliamo continuare la giacciarata sia con Graziano che con altri amici che magari si presentano a Itaura Matessi. Ok, ciao Antonio Zé, grazie ancora, salutoni in casa, ti mando Graziano per i saluti. Vai, grazie. Ciao, buon proseguimento di serata, alla prossima. Ciao, buona cena, buon tutto. Vai Luca, o chi c'era? Non c'è più nessuno, grazie, siamo rimasti, noi due siamo rimasti. Allora mangiamo, guarda su, la mangiamo, pronto è? No, va vale, aggiungi un po' con lei, ma che ce l'ha sul fatta, guarda. Un po' gliela aggiungo. aggiungi ossia che si brucia tutto. Vabbè dai, tanti avremmo un po' più buffonato me, intanto ma niente che me frequenza, grazie. Siamo soli, allora vogliamo buru, mica che butta che già mi dura, no? E allora lo sai che quando il vaporeggia si consuma, e se no davvero per brutto, e glielo aggiunto, poi lo assaggio, se devo aggiungere un po' di sale glielo aggiungo. E fai bene, poi un po' di vino bianco buono nel burro, cioè che bisogna, così insaporisce meglio. E rimane tre salsicce mi raggiungati con tutto questo magna, eh? Ah, intendi? 3, a 3 a 3, 1, 2 e 3, andate. Andate, grazie. Fate giri bene, pure la tazzita, no? Andate alla piazza, a me non mi piace perché non li vedo, ma io mi cuoio, vai buono. dunque non posso dire, non mi posso vantare, insomma, ecco. Ma quando mangio un po' caretto con cipisante, un po' così tutto, mi vuole una tazzista, uno strappa la regola, bisogna farlo ogni tanto. Ma non mi piace, la copesa non mi piace a bocca, l'acqua non mi piace, oh grazia, e dunque lì c'è un problema. E ueva, e buh, dunque andava così. E poi magari mi mangio un bel gelato, questo sì, mi mangio qualche pezzo di cioccolato, queste cose sì, la puoi mangiare sempre, giugna sera, giugna lì. No, abbi proprio no, abbi no, non sono comportato mai niente, non ho mai visto e non ne vedo manco va. Ma chi sei? Un tocco proprio di chi ti pone secco, una signorina a Bari, il gusto mio, oh yeah! Ok, cos'è che ti duri? Chi era quella portantina? Santiago 6, 7, chi era avanti? Buonasera, amico. Sì, Nicola, non ho capito bene. Nicola, sì. Era lì, tu? No, non capisco bene. Ma non sei italiano, vero? Avanti, l'amico. Non parlare italiano. Ok, Bay City, Sardegna, Bay City, Sardegna. Città Sassari. Tu chi sei, tedesco? Hai capito, poco capito, è ok. Litro, ok. Dai, strumenti paesani. Americano, No, è americano, io non capisco, non capisco la tua lingua, io solo italiano, è solo italiano, capisco. Per cui mi dispiace, ma non ti sento discretamente, si è arrivato anche Santiago 9, poi con SB sei sceso a 6, e la radio è buona, però non capisco purtroppo la tua lingua, non capisco la tua lingua, io italiano e basta, avanti ancora, vediamo un po' se tu riesci a comprendere quello che dico io. Ciao, my friend, ok. Ma tu lo sai bruciare, Non era tedesco, è americano, lo tedesco dice, gli sta dito ok, dice ok, my friend, è americano. Sarà così, io so conosco un buon suono l'italiano, dunque, qualche volta conosco un buon usaggio, qualche volta, non sempre, Forse pure che è inglese, anche gli inglesi sono come l'americano. Sicuramente non è dall'America, perché l'America è lo che noi la riceve così, no? Produce per propagazione, è difficilissimo. Casomai può essere dall'Inghilterra, non lo so, vabbè, comunque. Io amico, se mi stai ascoltando, io ti saluto, però mi dispiace, non capisco la tua lingua, non capisco l'inglese. Vabbè, avanti, brucia un duro con l'inglese, grazie. Sarà che cosa inglese che non che ha fatto un segno, capisco. Paga pur conoscendo, io tu hai una bella propagazione, pure poco fa sotto fondo sentivo un casino di gente a parlare. Allora, tu sei bigliano ma piazzista, cosa non consiglia niente, dico. Io credo che era uno che l'aveva invitato tu a mangiare, e allora ti raziamenti, ma mi pare invece che noi così. No, deve essere di passaggio, quanto ho fissa sicuramente. No, era di propagazioni, l'avevo preso, vabbè dai, comunque, siamo i sani. Aspetta che devo vedere un telefonino, che mi hanno mandato una lettera, mi hanno mandato. Ehi, guarda che tanto mi guardo il bruno, già so che nomi, chiama quando è. Entro subito che sto facendo cosa. Giulio, Giulio Besso di sì. Giulio, se mi senti, passa al 23. C'è qua? ancora su 10 K. Ehi! Canaiata! E Luca, buonasera! Canaiata! Cagaiata! Che cagaiata? Cagarella! Sta parlando cagaiata! Cagaiata! Cagaiata sta vedendo! Cava di su, l'altro! Ah, ma pensavo che era cagaiata! Cagaiata è una ricca! Ah, ricca, è una tua chiaro, ma... A bancali, Gadri, fratete! Ogni fase a ganna! Stai dicendo di Vicenzo? Cazzo, come ti diciamo, boh? Non lo so, me lo devi indicare, perché ce ne sono parecchi di cagaiata. Sei a casa di Marina? Ia, sono un attimo, lo sto passando. Ia, ok. Che sono appiccita all'aria. Si basta cagaiata, me ne la magna. Diavolo. E chi è? Qualcuno mi dà il QRM, chi è che sta parlando? Ehi, che cazzo è? E c'è una famiglia doccia, vai! E oggi ha fatto! E avanti la famiglia Guiuppa! Ma ogni tanto si sente questo, Antu, ma che cazzo è? Tu sai qualche gay! Ma tu lo senti? Sì, io lo sento! Ma a te ti arriva più forte di qua? Ah, io più forte di tu! Vabbè, quello senza ombra di dubbio che va un baracchino di cioccolato. Che chiama Antonio. Non lo capisco. No, ma che ho capito cosa ha detto? Yeah. Esci, esci, entro in doccia, vai. Ci sentiamo dopo se coincide. Dimmi. Dimmi. Cosa? Dimmi. Ci programmi? Ma ti bucca che ti dico. Una scarpa. Così ti ricorra. Avanti che Asquai Polizai. Ebbè, pompetta. Se sono i tedeschi ci sono. Sento i tedeschi sotto al centro. Anch'io sento i tedeschi da vita, comunque sia. Sono in AM e in FM. Esatto, sì, in FM. Sembra in AM, sembra. Quindi che vuoi la calma larga, diglielo tu. Sì, io non vedi un paese vostro. Ho capito, cosa gli hai cosa che gli hai chiesto, non ho capito. Vane la zioba, vane. Ah, le cipolle, noi usiamo i calciofi, la verità. E vane il burumba di piaggio di guru, vane. Esagerato. No, dai patato, non vedi. E in che mi sono tutti i mani abbassati, Giovanni, me. Già lo grido. Che cattofene! Ma ti arrivo stasera? Prova un po'. 25. Sono da TikTok, cagato. Già va bene. Sì, lui, sto... Sto contrattando con una persona che non voglio dire il nome, con qualche giocattolino bello. Ah, meglio così, da ora. Abusivi. Ma quello lì minchia, c'è sta in terza marcia già, è cominciato le marce remontando. Chi sa si regge un capo, cazzo, uia. Buonasera Marco Condor. Ciao a tutti, sono entrato per un saluto, oggi non ho acceso nulla che non ne ho voglia. E poi c'è sempre roba da fare qua. Ciao Antonio, ciao Antonio, io adesso faccio le solite cose. TV eccetera. Dai, ciao, riprendete. Corretti. Sempre di cosa sì, a che ora, boh. Stai appena mangiando. Io ho buttato la spazzatura, Antone, perché se non si accumula. L'ho buttata poco fa, la differenziata, no? E adesso minimo ci passa il caffè, la massa caffè, eccetera, eccetera. Dai, non riprendo, Antone, che oggi sono abbastanza stanco. Dai, ci sentiamo. Ciao a tutti. Vabbè. Dopo così, proseguimento, non c'è problema. Da parte mia. Mi vi lascio in compagnia dei tedeschi, mi dei crocchi. Ciao, ciao. Grazie. Farà da bronzola e c'ha parecchio. Sì, Antonio, sei crollato a 9, dai. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao. Alla prossima. Bisogna i grocchi, mi bisogna oggi. I grocchi? Ma che cazzo li chiamano i tedeschi? Si chiamano tedeschi e basta. I crocchi, crocchi, una cosa del genere li chiamano. Ma cos'è crocchi? Ma dov'è? Ma che tu reggi l'RG58? 200 watt, 300, uno di più. Dove mi si fa stanno due mozzo, no? Ah, quello già funziona bene. Belli bimpanti, toccati, guarda che si è girata l'atmosfera. E allora? La mia cazzofa! Faccio le chiamo in FM, aspetta. Ti seguo pure io. Attenzione, mania cazzofa! Senti il bombo della Sardegna, cambio! Come mi intendi? Ehi, aspetta. Attento, my friend, for Germany, scucci station, la farima Italy. Attento, my friend, Germany, scucci station, la farima Italy. Altro di no. Ripiamo nel culo. Sì, ma sono in AM. No, no, sono in FM, non ti preoccupare. Attenzione, succia succia, intendi la Sardegna. A me mi sembravano... mi sembravano in FM, in AM mi sembravano, La verità ti dico. Ah, boh, non lo so. Marco Fuggito. Ma mi sembrava 25 ti arrivo, Antonio, ho aumentato il segnale. Ehi, aspetta un attimo, arrivano subito. Sì, ok. Avanti, avanti, qui la Sardegna che cambia, che chiama. Avanti, my friend, qui Sardegna, Italy. Ma delante, delante. Io ti sento, tu come mi senti lì? Ma qui arrivi... non arrivi forte, ma ti sento, va. Come ti cazzo gli dite in tedesco? Attenzione, attenzione, sentite la Sardegna che fa chiamata qui, stazione Bombolini. Almeno in inglese, Anto. Attention, my friend, do you copy Sardegna Island, please? Se non le comprendono. Sì, ma sono troppo bassi. Troppo bassi anche qua, no? Non c'è il tatto. Dai, rinnovo i saluti, Anto, sono... sai come sono? Te lo posso dire come mi sento? C'è pure travagliato, gà. Io no, ma è come se avessi travagliato. Mi sento a dito in culo, mi. Ma ti intendi? A dito in culo. A dito in culo, vai. E così mi sento, dai, più o meno, quindi. Veramente stanco, devo avere anche la pressione alta, adesso controllo. Dai, ci sentiamo, ciao. Non riprendo, Va bene, va. Sento per forza, all'interno. Io, alle